Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Come abbiamo ricordato non più di qualche settimana fa, la produttività dell'edilizia è oggi inferiore a quella degli anni 60. Considerato che nel frattempo la demografia langue e i terreni edificabili sono quasi scomparsi, non c'è da stupirsi che il paradigma edilizio del passato sia entrato in profonda crisi. Una possibile via per uscire da questa impasse che stiamo monitorando attentamente qui a Smart City è offerta da quei progetti che per ora sono pochissimi e prototipali, che tentano di dare una risposta industriale al tema delle riqualificazioni edilizie, laddove finora è largamente prevalso un approccio artigianale. È il caso del progetto CMR, dello studio di architettura Massimo Roy Architects, presentato a ottobre in occasione di Rebid, che ha messo appunto un vero e proprio sistema plug and play basato su dei componenti prefabbricati per ristrutturare immobili, nello specifico caso destinati a uffici. Per parlarcene c'è Massimo Roy. Buonasera Roy. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, ci descriva un po' questo vostro approccio, come funziona? Beh, diciamo che tutto nasce da un'analisi del mercato immobiliare italiano per quanto riguarda il tema degli uffici. È un mercato estremamente complesso e articolato, ma fatto per la massima parte di edifici obsoleti. Quindi il tema grosso è quello di come rivalorizzare e sistemare questi edifici, con il tema di non svuotarli dalla popolazione che li occupa quotidianamente. E l'idea è quella di pensare, che abbiamo pensato, è un prototipo, è un sistema sperimentale di facciata plug and play, l'abbiamo detta, in grado di essere predisposta off-site, quindi in stabilimento, e portata in opera e montata sugli edifici ad uso uffici. È una facciata che normalmente a prima vista può sembrare normale, ma al suo interno ha tutta una serie di tecnologie, ecco, che le permette di avere un valore diverso. Come funziona l'operazione di messa in opera? Forse questo chiarisce un po' tutto. Beh, diciamo che appunto in stabilimento viene montata la facciata in cellule che possono avere altezze e dimensioni diverse dipendendo dai singoli edifici. Certo. Quindi voi costruite in realtà, diciamo, in fabbrica dei grandi, mi passi il termine, pannelli che ospitano al loro interno l'isolamento, l'involucro esterno, la parte che protegge l'edificio, ma anche tutta una serie di tecnologie. Quanto sono grandi questi oggetti? Allora, le chiamiamo cellule, sono delle cellule che possono avere una dimensione che è in accordo con la facciata esistente di un edificio, possono andare dal metro al metro e 20 fino al 2,40 metri, okay. 2,80 metri. E poi per altezza di solito si può arrivare all'altezza di interpiano, quindi sui 3,5 metri, 4 metri, anche grande. E poi al suo interno porta quelle tecnologie che dicevamo prima, possono essere la parte meccanica per fare caldo e freddo, la parte elettrica e il cablaggio per la distribuzione appunto dell'informazione e dell'energia, ma non solo questo, la facciata può anche produrre energia, può produrre energia elettrica tramite i pannelli fotovoltaici che vengono a essere inseriti nel sistema di facciata. Quindi sono tutti componenti che sono in qualche modo funzionalizzati. Poi voi riconnettete, immagino, gli impianti dall'interno. Sì, diciamo che per evitare grosse problematiche agli utenti che vivono questi edifici, interveniamo dall'interno mettendo un isolamento, è una paratia che isola a pochi metri dalla facciata e che permette alle persone di rimanere a lavorare al loro interno. È una paratia traslucida che permette alla luce di entrare, ma che al tempo stesso blocca sia gli aspetti più problematici e quindi è insonorizzata, e anche gli aspetti termici. Dopodiché si interviene dall'esterno con una gru esterna, quindi senza un'impalcatura ma con un braccio mobile, smonto la facciata esistente e immediatamente rimonto la facciata nuova. Connetto il sistema impiantistico e poi smonto la paratia interna e quindi posso permettere alle persone di lavorare normalmente con performance nettamente superiori al precedente intervento. Ecco, secondo le vostre previsioni, per esempio in termini di efficienza energetica, i benefici di che ordine sono? Beh, noi abbiamo fatto degli studi su alcuni degli immobili esistenti oggi sia a Milano che a Roma e in entrambi i casi passiamo da classe energetica F a una classe A. Addirittura potrebbe essere anche un A+, perché ovviamente si può spingere maggiormente. Beh, certo. Nei nostri conteggi può portare a una riduzione dell'80% del fabbisogno energetico per la climatizzazione, quindi vuol dire almeno un 60% in meno in bolletta immediatamente visibile, vuol dire anche assolutamente rimozione di quelle che sono le emissioni di CO2 per la climatizzazione, perché intervengo in altri ambiti, e quindi un effettivo guadagno immediato, oltre che anche ai tempi di inserimento e di installazione di questo nuovo sistema, perché abbiamo calcolato che ci si può mettere meno della metà del tempo di un sistema tradizionale. Ecco, quindi con un fermo che in realtà è quasi inesistente, visto che voi in realtà lavorate senza impedire che in edificio continuino a svolgersi delle attività. Senta Roy, a che punto siete di questo progetto? C'è già qualche realizzazione visibile? No, è ancora una sperimentazione. Tutto è partito, diciamo, l'anno scorso a seguito di Rebuild e siamo in fase avanzata di questa sperimentazione. Abbiamo fatto delle fattibilità su due edifici, dicevo prima, abbiamo al nostro fianco delle aziende del settore, leader del settore, che ci stanno aiutando nell'ingegnerizzazione del concetto, sì. E abbiamo anche in attesa i grandi gruppi che gestiscono gli immobili, che sono assolutamente interessati a poter riqualificarli senza grandi problematiche per gli utenti che li vivono oggi. Questo approccio è un approccio che funziona, perché stiamo parlando di immobili ad ufficio, magari con un unico proprietario, magari posizionati in zone dove i valori immobiliari sono elevati, perché c'è sempre questo problema, lo ricordiamo agli ascoltatori: dove ci sono valori immobiliari elevati, qualunque intervento finisce, insomma, per giustificarsi; dove sono molto bassi, è molto difficile trovare motivi per intervenire. Ecco, lei pensa che con questo approccio sarà possibile anche mettere mano a quell'enorme patrimonio malconcio delle periferie italiane, anche a basso valore per il metro quadro? Assolutamente sì, io sono convinto che questo discorso, l'industrializzazione di un sistema, possa portare riduzione dei costi e quindi possa portare un grande vantaggio proprio sulla riqualificazione di immobili esistenti e per la massima parte distribuiti non solo nelle aree privilegiate delle città, ma spesso nelle zone periferiche. L'industrializzazione diminuisce i costi, velocizza il sistema di implementazione, e quindi questo, una volta partito, potrà essere un processo solamente vantaggioso per tutti e non solo per pochi. Anche perché siamo veramente in una fase iniziale in cui c'è ancora tutto il tema delle economie di scala da affrontare, oserei dire. Assolutamente sì, e la scala in questo ambito è una tutto. Scala molto molto ampia. grazie Massimo Roy. Grazie a lei. Va bene, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani, buona serata a voi tutti.